Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e bentrovati. Lo studio oggi è molto affollato. Vogliamo parlare con voi di molte cose, ma soprattutto vogliamo parlare di ospiti molto speciali che abbiamo con noi qui oggi. Sono un pezzo della storia della nostra musica, eppure sanno sempre essere nuovi, sono amatissimi, eppure molto capaci di stare coi piedi per terra. Sono quasi certamente anche nelle vostre case, perché è quasi impossibile non trovare una famiglia che non ha nella sua collezione musicale privata almeno un loro disco. E sono da poco ripartiti per un viaggio musicale di rara e straordinaria bellezza. Una vera e propria opera seconda. Chi sono? Ve le introduco con la loro musica. Chi fermerà la musica è uno dei loro successi più grandi, e nessuno fermerà la musica, così come niente, nessuno è mai riuscito a fermare i Pooh. Buongiorno a tutti e tre. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, ciao. Wow, bello. Lasciate che vi goda un po'. Vi guardo. In studio con me Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, reduci da due concertoni milanesi del loro tour. Come vi sentite stamattina, Roby? Ma ci sentiamo benissimo, questo tour ci sta dando veramente tantissima energia e nonostante l'ora devo dire che ci sentiamo benissimo. Pieni di energia. Pieni di energia. Allora, perché voi ieri sera eravate per la seconda serata consecutiva agli Arcimboldi, siete in tournée tra l'altro da qualche settimana, eppure vi vedo bellissimi, freschi, pimpanti. Io che ogni mattina cerco di condividere segreti di salute che possono servire di più soprattutto a me e poi naturalmente anche ai nostri ascoltatori, mi viene già la voglia di chiedervi qualche cosa, perché voglio sfruttarvi un po' anche come coach, perché i risultati si vedono, bisogna fare come voi. Come ci si mantiene così energici, vitali, appassionati, positivi, sorridenti, pur avendo alle spalle, diciamo, un carrierone pluridecennale? Inizierei da Roby. Ma guarda, è chiaro che la qualità della vita è molto importante, l'alimentazione, il riposo è assolutamente determinante, no? Soprattutto ora che siamo in tournée. L'alimentazione anche è importantissima. Tu pensa che in tournée io mangio una volta al giorno, a mezzogiorno, a pranzo, sì. Poi un po' di frutta verso le 6, mm-hmm. Faccio il concerto e come scendo dal palco io vado a letto immediatamente. Questa è una cosa che faccio in questi ultimi 10 anni, fino a 10 anni fa invece la cena dopo concerto anzi le nostre tournée venivano fatte, la tournée a livello di concerto, mm-hmm. E poi c'erano tournée enogastronomica ed era normalissimo. Adesso non ce lo possiamo più permettere, perché è importante andare a letto, riposarsi, alzarsi al mattino presto, una ricchissima colazione e poi, come dicevo appunto prima, un pranzo ben nutrito. Ben nutrito, quindi Roby punta sull'alimentazione. Red? Ma assolutamente, vabbè, io sono addirittura vegano. Per cui mangio ciò che Dio ci ha dato, non ciò che l'uomo ha manomesso, per cui mangio frutta al mattino, che è il cibo degli dèi, frutta secca e frutta fresca, sì. Sempre cose di stagione a chilometro zero, e mangio anche io una volta al giorno, infatti ne parlavo prima in macchina e con Roby e mi trovo bene, perché mangio proteine a mezzogiorno e poi prima del concerto magari una banana, un po' di potassio, un caco in questo periodo che fanno benissimo. E poi dormire. Dodi, ti hanno già rubato il consiglio sull'alimentazione, che va sempre sì, forte difatti. Noi tra l'altro andiamo forte al giovedì anche col Filippo Ungaro, che è un amico di Red, e ti hanno già fregato il consiglio sul sonno. Esatto. Ma tu, io che direi, cosa mi chiaramente non posso che appoggiare quello che hanno detto i miei amici e colleghi, e insomma non è una novità il fatto che uno si alimenta bene, dorme bene, vive bene, insomma fa una bella passeggiata, male non fa. Direi però che noi abbiamo probabilmente avuto la fortuna di avere una marcia in più in questi termini, nel senso che riusciamo anche a essere in un certo senso unici, cioè uni integri in quello che facciamo, nel senso che siamo riusciti a fare di una grande passione un lavoro, un mestiere, e il fatto di salire ogni sera su un palcoscenico e fare quello che ami profondamente, certo, ti dà un'unicità, un'interezza con te stesso, che sicuramente è una delle cose che fanno meglio. E lo dici qua a Radio 24, che ha proprio come slogan la passione si sente, esatto, e difatti, nel caso vostro si vede la passione si sente. Bravo. È chiaro. Alla mattina mi riesce anche a me questa voce qui, sì. Magnifica. Allora, invece, dopo aver sentito i consigli di Roby, Red e Dodi, non so quale sia il segreto nascosto di Alberto Pellai, il nostro medico e psicoterapeuta che ci accompagna spesso in percorsi in cui vogliamo tenere insieme emozioni, pensieri e anche far produrre altrettanti emozioni e pensieri ai nostri ascoltatori. Perché devo dire che, non so se potete vederlo, anche lui se la cava benino. No, guarda, tanto buongiorno a tutti, qua c'è proprio un clima di festa. Devo dire che io sono invidiosissimo dei Tre Pur, li abbiamo visti in concerto sul palco, quasi 3 ore di concerto, un'energia che io sono uscito e ho detto ci dobbiamo far dire il loro segreto. Credo che hanno davvero un segreto inimitabile. Penso che quello che diceva tra l'altro Dodi ha molto a che fare con le neuroscienze, cioè se il tuo cervello riceve da quello che ti sta fuori gli stimoli giusti, comincia a produrre dentro di te un sacco di neuroormoni molto molto buoni, certo, che tengono molto vitale tutto il resto. Sì. Devo ricordare in questo clima di festa il nostro numero verde 800 24 00 24, perché i PU sono qui in studio, li abbiamo chiusi dentro, Alberto Pellai ed io, non li lasciamo uscire fino a mezzogiorno, per cui scatenatevi. Potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Noi però abbiamo previsto una puntata che sia attivante anche per il vostro benessere, sfruttando proprio le competenze dei nostri amici. Prima però di farvi indovinare il percorso, la traccia che abbiamo pensato per voi, vorrei farvi ascoltare che cosa i PU hanno scritto del loro progetto musicale, perché le loro parole saranno proprio la traccia su cui noi scriveremo il copione, possiamo dirlo così, Alberto? È proprio quello. Della puntata di oggi. Sentite e chiamate. In questo nuovo progetto musicale, Opera Seconda, abbiamo immaginato un film dalla trama aperta, dove gli interpreti si rincontrano e ad ognuno viene data una seconda possibilità di ribadire il proprio ruolo nella vita. Un'opera dove il cuore guida la mente e le parole non possono aggiungere nulla a quell'impatto emozionale che solo la musica può dare. Un'opera piena di personaggi lontani, ma ancora incredibilmente attuali e veri, che in un tempo pur così differente da quello in cui li abbiamo pensati e creati, si ritrovano insieme e uniti da un unico profondo bisogno: quello di essere ascoltati per una volta ancora. Ecco qua. Leggendo questa traccia che spiega il senso di questo nuovo progetto musicale dei PU, ci siamo fermati e col mio amico Alberto abbiamo detto: ecco, oggi il nostro tema non può essere che quello della seconda volta, della seconda possibilità. Credo che quest'idea di far vivere una canzone come se fosse un piccolo pezzo di noi stessi, un piccolo pezzo di vita che è stato nel passato e può, pur rimanendo se stesso, diventare qualcos'altro di completamente nuovo nell'oggi, è un po' il segreto dell'imparare dall'esperienza. In fin dei conti, noi siamo ciò che siamo diventati, ma diventiamo ciò che vogliamo essere. Che non è uno scioglilingua. No, no, è la verità. Bellissimo, bellissimo. E quindi trovo che dentro a quest'idea, tra l'altro, c'è una tale veramente energia quando portano questo progetto sul palco. Io ho proprio fotografato alcune immagini del loro pubblico che arrivava sotto il palco e si capiva, c'era, ve la devo raccontare, perché c'era, dai, questa signora meravigliosa, cinquantenne, l'età perfetta per una donna, giovanissima, esatto, è arrivata delicatamente, proprio quasi un po' paurosa, e poi ha cominciato a ballare con il suo proprio ritmo e si capiva che lei portava lì sotto un pezzo della sua vita che è stata e che rinnovava, ringiovaniva proprio sotto al palco dove stavano cantando la sua vita. Ed è stato bellissimo. Bene. Chissà quante immagini avrete negli occhi. Poi dal palco, no, notiamo tutte queste cose qui, ed è vero quello che dice, che ha detto lui, no? E noi abbiamo dei fans che nel tempo sono diventati anche amici, perché quando si ritorna più o meno sempre nella stessa città, nel stesso luogo, si conoscono e nel tempo diventano, sono diventati, e ne abbiamo tantissimi amici che ci seguono, e ci sono addirittura dei gruppi dalla Sicilia, dalla Puglia, dal nord, che si incontrano e che hanno in comune appunto la nostra, questa passione per noi, e si creano dei gruppi straordinari che scelgono addirittura di fare le vacanze con noi, seguendo la nostra tournée. Anche ora ci sono dei gruppi dalla Sicilia che stanno seguendo le date al nord, e questo io credo che sia quello che diciamo sempre: il nostro vero patrimonio è rappresentato da questo pubblico straordinario che da anni ci segue e ama quello che noi facciamo, sempre, hanno sempre amato e continuano ad amarlo. Sarebbe proprio bello farcelo raccontare da loro, cioè in fin dei conti voi avete creato un'opera seconda, sì, che viene dopo un'opera prima, perché sono tutte canzoni che fanno parte del vostro repertorio, ma è come se le aveste completamente reinventate, quindi nel solco della vostra storia personale musicale avete detto: diamo una nuova possibilità a queste canzoni, e vengono, sì, fuori come personaggi, cioè, sì, proprio come entrare in un film, sì, rivedi. Come vi è nata l'idea e che cosa... Ma io credo che nella nostra storia ci siano molte canzoni che hanno bisogno o meriterebbero una seconda chance, perché sono canzoni importantissime. Tu pensa che Ci penserò domani, che è il singolo, diciamo, di questo, il primo singolo di questo album, non era mai stato un singolo quando lo facemmo nel 78. Altre canzoni importanti di questo disco erano comunque state tracce che avevano lavorato all'interno di un album, lavorato per le persone più appassionate alla musica dei Puma, non erano diventate popolari come canzoni. Ed erano canzoni importanti, perché Pierre nel 76 trattava l'argomento dell'omosessualità, che nessuno l'aveva mai neanche affrontato. Il discorso delle femministe in Quaderno di donna, il grande sognatore Lindbergh, sempre nel 78, che decide in 37 ore di passare da New York a Parigi attraversando con noi l'abbiamo visto l'aereo, e lo Spirit of St. Louis è veramente legato con gli spaghi, e quindi un sogno fatto di coraggio, no? E quindi tutte queste storie meritavano una seconda possibilità. Ovviamente abbiamo attinto al nostro repertorio passando attraverso tantissime storie che però poi provandole all'atto pratico non ti permettevano di entrare a manometterle, a ridargli un'altra veste, perché erano già a posto così. Queste canzoni invece, queste 11, ci hanno permesso di entrare e di lavorare a livello di arrangiamento, di struttura, e poi per questo disco noi abbiamo scritto di più che forse per un disco inedito, perché tutte le parti orchestrali che tu hai sentito anche dal vivo sono assolutamente inedite, e per noi che scriviamo musica pop e canzoni è stato un bel impegno riuscire a scrivere anche per orchestra queste overture, queste chiusure, e poi tutto legato insieme, no? C'è tutto, è un percorso, è un concept, come dicevano agli anni 70, è comunque un discorso tutto unito, perché tutti questi personaggi, pur lontani tra di loro, si rincontrano. Mi piace, Dodi, ma sì, di tutti questi personaggi tu ne hai uno in particolare nel cuore? Io... A cui sei stato proprio contento di dare una seconda possibilità. Beh, buona la prima, c'è ancora una seconda migliore. Guarda, intanto io credo che la seconda possibilità nella vita faccia molto bene, perché quando, adesso facciamo un minimo di filosofia, quando tu fai le cose per il meglio e hai la seconda possibilità di risperimentarle, cioè ti riaffranchi, no? Dici: ho fatto una cosa fatta bene. Mentre la seconda possibilità, se hai fatto magari una sciocchezza, ti dà la possibilità di fare le cose fatte per bene, no? Sono molto legato, per venire alla tua domanda, al personaggio di Ci penserò domani, perché la donna che viene raccontata in questo brano è proprio una persona che era molto di moda negli anni 70, che credo sia abbastanza a oggi poco nel tessuto sociale. Di oggi, perché negli anni 70 noi lo vedevamo, il personaggio era classico, quello delle gruppi, no? Quelli che partivano di casa con una valigetta, non sapeva dove andavano, non telefonavano, non c'era ancora i telefonati, cioè c'era questa vaghezza, questa cosa che non si sapeva esattamente quello che facevano di loro stesse di lì a domani, quando sarebbe accaduto. E credo che la consapevolezza delle nuove generazioni di oggi abbia un attimino scavalcato questa maniera di esistere, per cui io questo la vedo in termini positivi, nel senso che è un'evoluzione della nostra maniera di porgersi alla vita. Allora, agli amici da casa vorremmo chiedere di chiamarci in diretta 800 24 00 24. Ci state seguendo su Facebook, leggeremo alcuni messaggi anche su Twitter, e di provarci a raccontare il secondo capitolo della vostra vita, la seconda volta che vi è piaciuta più della prima, o proprio ispirandoci a quello che gli stessi poi hanno detto, qual è la seconda possibilità che, se poteste, vi vorreste dare? Insomma, se solo vi fosse possibile riavvolgere il nastro, che cosa vorreste girare di nuovo, ricomporre in un altro modo? 800 24 00 24, Alberto, tra l'altro, è un invito a cui possiamo abbinare anche un regalo magnifico. Sì, perché ci sono due copie di Opera Seconda, il nuovo CD dei Pooh, ed è veramente un viaggio di 70 minuti senza interruzione, dove la musica accompagna le parole. Quindi raccontateci la seconda volta che è stata migliore della prima, la seconda chance, oppure la famosa frase che dite sempre: se tornassi indietro questa la farei in modo diverso. La luce è sciolta nel caffè e ogni notte così, questa radio è il mio mondo, quei dischi, i giornali e gli scontrini del bar. Senti il telefono ancora, è la solita signora, oh no. Noi abbiamo scelto questa traccia da Opera Seconda perché è una canzone che parla proprio di noi, che facciamo la radio, no? E tra l'altro proprio quando nascevano le prime radio private già si capiva che sarebbero diventate quelle che poi siete diventate. E tra l'altro, da quando l'avete scritta è cambiato tutto, no? Anche nel mondo dell'etere. Io vorrei sapere, ma a voi capita di pensare un po' con nostalgia ai tempi in cui le vostre canzoni servivano per far dediche d'amore alla propria fidanzata? Adesso sti uomini non le fanno più, magari nella piccola radio locale. Insomma, che cosa è rimasto di quel primo tempo lì? Dato che oggi parliamo di un primo tempo e di un secondo tempo. Ma delle nuove generazioni devo dire che è rimasto veramente poco, no? Adesso i rapporti nascono anche attraverso Facebook, piuttosto che il telefonino. Uno si innamora con i messaggini, poi ci si lascia col messaggino. E devo dire che questo mi è veramente molto difficile da capire, perché io sono rimasto al fisico, al toccare, vedere, no? Sì. Abbracciarsi, conoscersi, ci piace, parlare, insomma, no. e questo mi è veramente molto molto difficile, per cui su questo fronte è veramente cambiato il mondo, sono cambiate moltissime cose, questo è un peccato, c'è sempre più solitudine, no? Ognuno tende sempre a consumare i propri drammi o le proprie gioie entro le quattro mura. Anche questo è un grande problema. Poi ci meravigliamo perché leggiamo che uno si butta dalla finestra, o quelle tragedie che, sì, ahimè, certo, quotidianamente accadono. E credo che sia questo: la gente è sempre più sola, e questo devo dire che è un peccato. Abbiamo Marino che ci chiama da Milano. 800 24 00 24. Marino, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, ciao ai tre Pooh. Io ieri sera ero agli Arcimboldi, ero al mio 48esimo concerto dei Pooh. Il primo l'ho visto al Teatro Lirico nel 76, e quindi da allora tutta una serie. La cosa bella è che ieri con me c'era il mio terzo figlio Daniele, di 7 anni, che cantava comincia il sole a squarciagola. Ma dai, bello! Bello. No, Dove comincia il sole, che fra l'altro è il brano che noi abbiamo inciso 2 anni fa, insomma 2 anni e mezzo fa. Chiaro, e lui a 5 anni ha iniziato con quello, quindi è stato il suo primo album dei Pooh, per quanto lo riguarda. Ricordiamo poi che dopo Milano voi siete, vi abbiamo chiesto i consigli per rimanere sempre pimpanti, perché avete un tour con date che si susseguono in continuazione, 16 e 17 a Roma, andate il 19 a Firenze e poi il 27 a Livorno e poi il 21 andate a Parma e poi il 23 andate a Rimini, insomma continuate così, ma poi scendete perché andate anche a Catania, siete anche in Sicilia con tre date, tra l'altro, quattro, perché Catania è stata raddoppiata proprio per mancanza di posti, nel senso che è sold out la prima data, quindi è stata aggiunta la seconda. No, io stavo dicendo che è una grande responsabilità la cosa che ha detto Marino, il nostro amico al telefono, perché, ed è una cosa bellissima, il fatto che un genitore affidi il proprio figlio a un artista, così portandolo a un concerto, significa che c'è veramente grande fiducia, grande amore, e da parte nostra sentiamo questa responsabilità di aver comunque creato questo tipo di rapporto molto diretto col nostro pubblico, che è un rapporto importante e che ci obbliga ogni mattina a pensare a fare le cose al meglio, perché c'è gente che veramente ha dedicato tantissimo amore alla nostra musica. Maria, mare, oltre il mare, c'è sempre altro mare e di più. Maria, mare, con le ombre, più amare nel cuore e di più, e di più. Maria Marea, siamo tornati in studio con noi insieme ad Alberto Pellai. Ci sono i Pooh e questa è una canzone che racconta di una donna che fugge via da tutti gli amori sbagliati della sua vita, cerca comunque una seconda opportunità. Cosa dici, Alberto? Sì, con la forza della marea, tra l'altro, quindi piena di energia. E questo ci aiuta per rilanciare la proposta di oggi per i nostri ascoltatori. Ci sono due CD dei nostri amici Pooh. Se ci raccontano la loro seconda volta, quando dici meglio la seconda, oppure se ci raccontano, potendo rigirare un pezzo del film della mia vita, qual è quello che vorrei toccare con una seconda possibilità. E a proposito di vita, Dodi, vogliamo rispondere, anzi vuoi rispondere, sì. Gabriele, l'abbiamo lasciato prima dei mercati, ci chiedeva su Facebook quanto la musica può rendere l'uomo migliore e com'è stata la sua valenza nella vostra vita. Una domandona da mille punti, siamo qua, sì. Sforiamo con Deborah Rosciani e... Guarda, io credo, non solo per me, per noi, la musica, io credo che sia un territorio, uno spazio dove innanzitutto non esiste il tempo, cioè quello che è accaduto 20-30 anni fa non ha più significato. La musica è un momento di aggregazione con noi stessi e con gli altri, tant'è vero che noi che facciamo la musica per mestiere, per noi è come si può dire, è curativo il fatto di fare musica, nel senso che la musica ti dà la possibilità di esprimerti, di farti ascoltare, però ti mette anche nella condizione di ascoltare gli altri, per cui è bello. E poi la musica è un territorio, uno spazio nel quale, col quale tu puoi dialogare in giro per il mondo con tante persone al di là delle parole. A noi arrivano dei messaggi, per esempio, dalla musica internazionale, che ci arrivano indipendentemente da quello che riusciamo a capire dalle parole stesse, per cui è veramente un mondo di aggregazione. La musica può aggregare tante persone lontane. Ma molti dei messaggi che arrivano anche al 349-238-6666 si chiedono se come artisti, come uomini, vi sentite meglio nella seconda opera o nella prima? Red, chi risponde? Roby? Facciamo Ma, sì, perché io e Red stiamo bevendo un caffè, ce lo esatto. siamo regalati. Ho visto che anche lui mette lo zucchero, Filippo, sì. Peccato. Sì, Filippo Ungaro adesso lo... Io non metto mai lo zucchero nel caffè. Comunque, torniamo alla domanda. Dunque, la seconda possibilità, è certo, è un'opportunità di rifare la stessa cosa con l'esperienza per cui la puoi fare solo che meglio. C'è solo però un particolare, che è l'imprevedibilità, che trovo che sia una cosa veramente un aspetto molto importante, perché io faccio sempre il presupposto che la felicità sta nell'imprevisto, sta nel non sapere, non conoscere tra un secondo la sorpresa, e nella seconda possibilità manca questo aspetto che devo dire che lo trovo molto importante, molto importante. Se da un lato può essere importante perché la seconda abilità sicuramente ti dà, come in opera seconda, che abbiamo ripreso questi brani che all'epoca avevano un po' di, soprattutto in alcuni brani, degli errori, fra parentesi, di ingenuità, no? Perché non c'era l'esperienza per certe cose. Adesso questi errori li abbiamo sicuramente tolti, migliorati, e gli stiamo dando veramente una nuova vita a questi brani. Però quel tocco di sorpresa che ti dà proprio la non conoscere, non sapere, e vedere però crescere dal nulla certe cose, questo è un aspetto importante. Non è una sorpresa che i nostri centralini stiano andando in fumo, però 800 24 00 24, sono le 11:45. Mi disse vorrei che non fosse così, ma è proprio finita. Disse poi, ritrovando un sorriso assento, comunque l'ho voluta. Lo sai, le strade per farmi del male non le sbaglio mai. Questa è Ci penserò domani, una canzone cantata con Mario Biondi, una canzone perfetta, è un film, è una serie di immagini che raccontano attraverso quello che si vede da fuori, quello che sta dentro alle persone che vivono quella situazione, e poi è un'integrazione perfetta di un mondo, quello dei Pooh, e di una voce di un mondo, quello di Mario Biondi, apparentemente non così vicini, e invece un mix che arriva da tutte le parti quando uno l'ascolta. Come è nata? Tra l'altro Mario era sul palco con voi. E devo dire che ieri sera, quando in quinta lui ha cominciato a cantare Ci penserò domani, è esploso il teatro. Mario è un amico nostro da tempo, ma soprattutto una decina d'anni fa ci mandò questo CD con incisa Ci penserò domani, da lui, e dicendo che era la canzone che lui amava tantissimo tra le nostre, e quando abbiamo deciso di fare questo album e Ci penserò domani è entrata, abbiamo chiaramente detto a Mario che stavamo facendo questa cosa, e lui dopo due minuti era a farla con noi, senza parlare di avvocati, di manager, di editori o quant'altro, proprio col cuore. E col cuore ieri sera è venuto sul palco, ecco perché non abbiamo annunciato la cosa, perché queste cose devono nascere così, insomma. Oggi comunque sul sito c'è una bellissima foto, sul sito dei Pooh, che appunto racconta l'emozione di ieri sera. È un'emozione questa tournée, ed è un'emozione che non abbiamo costruito noi tre da soli, ed è giusto nominare anche tutte le persone che hanno contribuito a questo lavoro importantissimo. Primo fra tutti Danilo Ballo, che è il nostro arrangiatore da 12 anni, collaboratore musicale, che ha scritto tutte le parti per orchestra, oltre che per il disco anche per gli altri brani del concerto. Poi abbiamo Phil Mair, che è un batterista giovanissimo, trentenne, pazzesco, cresciuto a Pane e Pooh, perché è figlio di mia moglie, per cui insomma lui saliva nella batteria di Stefano quando aveva 4-5 anni, e quindi sa bene di cosa si tratta. E poi abbiamo questa Ensemble Symphony Orchestra, che sono ragazzi molto volenterosi, molto bravi, tutti professori, suonano bene, ma soprattutto suonano col cuore, cantano mentre non suonano, mentre non stanno suonando cantano le canzoni con noi, e c'è un bellissimo entusiasmo, diretti da Giacomo Loprieno, ed è uno staff bellissimo. Ma soprattutto un ringraziamento, io credo che i Pooh debbano anche al nostro manager, che stamattina è qui presente con noi, Franco Cusolito, perché in un momento come questo, e io all'inizio del concerto lo dico, che Dio vi benedica la gente, perché in un momento come questo vedere dei teatri esauriti con quello che costano i biglietti e con i problemi che il nostro paese ha, ma soprattutto in un momento come questo mettere su una tournée di, che a fine agosto arriveremo a 70 date, ci vuole coraggio, perché non è facile, è un momento, e quindi io credo che Franco Cusolito meriti anche lui un ringraziamento. Bravo Franco. Ma bravo, noi abbiamo anche Maurizio, Antonio e Stefania, ce la facciamo, siamo stringatissimi. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Se la tutti. Giochi, buongiorno. Buongiorno, me la gioco velocemente, ciao ai tu ovviamente, buongiorno. Sono Maurizio e sto chiamando da Ischia. una splendida isola che loro conoscono molto bene. Io ho visto il primo concerto dei Pooh qui sull'isola nello Scotch Club del 1972, quando c'era ancora Riccardo Fogli all'interno. E poi ho conosciuto Robbie e Red qualche anno fa nella pizzeria. Senta, io direi racconti la sua seconda volta. Allora, se no mi scappano, non c'è più. Allora, la mia seconda volta è stata venire a vivere a Ischia. Per me è iniziata una seconda vita e devo dire che è stato un momento di crisi pazzesca, ma che mi hanno salvato solamente ed esclusivamente la musica dei Pooh. E quella canzone di quell'epoca, L'altra metà del cielo, che era praticamente la mia compagna in tutti i momenti di tristezza. Grazie Antonio, grazie. Dalla provincia di Salerno. Antonio? Buongiorno. Ciao, salve. Buongiorno. Ciao, buongiorno, come se la gioca? Buona la prima, salve, meglio la seconda? I complimenti ai Pooh li abbiamo fatti, si giochi il suo CD. Sì, praticamente vorrei avere una seconda opportunità nella questa seconda parte della mia vita, oltre i 50, e avere, diciamo, l'energia, ecco, che hanno avuto i Pooh in questa nuova, diciamo, seconda opera, seconda parte. Grazie molte. Piace molto questa energia che stanno mettendo in questa seconda parte della loro vita musicale. Allora, Ischia, grazie. E poi Antonio con l'energia, Stefania da Bologna. Buongiorno a tutti, volevo fare un saluto velocissimo ai Pooh e volevo dire invece, per quanto mi riguarda, sono un po' più giovane, ho 38 anni, però se potessi tornare indietro farei quello che mi è balenato solo per un attimo per la testa a 18 anni, cioè quello di fare la facoltà di medicina, anziché quella di giurisprudenza. Alla fine sono un avvocato, però mi resta una sensibilità particolare, questo mi viene riconosciuto dai miei amici medici e quindi confronti delle persone. In particolare quindi mi viene in mente la canzone Pierre, perché probabilmente avrei preso psichiatria. Non perché quindi gli omosessuali siano maschi, però allora Stefania, volevo dare i 20 secondi. Quale dei tre Pooh sceglie a chi dare il CD? Ah, io sono di Bologna, direi la mia amica di Bologna, alla quale vorrei dire questo. Mi piace, prima stavamo dicendo questo, è bellissimo vivere come se ci fosse una seconda volta, ma viviamo la giornata di oggi, poi è un regalo di Dio se abbiamo la seconda volta. Un grande grazie ai Pooh che sono stati qua con noi, tutte le vostre date le mettiamo anche sul nostro Facebook. Sì. Grazie ad Alberto, baci. Grazie. Nicoletta, grazie a voi. Grazie a te. Buona vita. Il cittadino decidi tu a chi darlo. Va bene, lo scriviamo su Facebook. Alla signora di Bologna abbiamo detto. Sono due. Grazie. All'altro, certo. Buona giornata domani. Certo. Io resto coi Pooh.